America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, comincio con l'incidente tra un tir e un pullman con a bordo solo turisti italiani sulla Interstate 380 in Pennsylvania, a 120 km da New York. Conoscerete il bilancio delle vittime dalle cronache: 3 turisti italiani morti, 14 feriti, 4 gravi. La dinamica, il tir forse per un colpo di sonno del conducente, ma devo dire non abbiamo ancora dettagli, ha attraversato uno spazio d'erba che separa le carreggiate e si è scontrato frontalmente con l'autobus che andava nella direzione opposta. È un orrore del destino, del caso, delle coincidenze che i turisti andavano alle cascate del Niagara erano partiti da New York. Il nostro eccellente consolato a Filadelfia si sta occupando di tutto, continueremo a seguire gli sviluppi nelle cronache qui su Radio 24. Oggi continuerò a parlarvi del G7 in arrivo, Barack Obama sta venendo in Europa, vertice con Angela Merkel domenica, prima degli incontri del gruppo, c'è un dibattito continuo tra Europa e Stati Uniti, chi ha ragione? Per esempio ha avuto ragione Berlino, che per anni ha imposto solo rigore, o gli americani che hanno scelto politiche espansive, portando crescita, 11 milioni di nuovi occupati, un tasso di disoccupazione al 5,4%, tra l'altro fra mezz'ora avremo il tasso di disoccupazione per maggio per l'economia americana. C'è stato un recupero della borsa, insomma, così via, così via. La verità è che ci sono due modelli diversi a confronto. Ecco, di tutto questo e della posizione americana nel contesto del G7, ma soprattutto nel contesto europeo, ne parlo con Mario De Aglio, professore di economia, economista, che sta facendo anche delle ricerche importanti all'Istituto Einaudi e qui di passaggio a New York. Buongiorno Mario, visto che abbiamo lavorato a suo tempo insieme, possiamo darci, credo, del tu davanti a tutti, senza salvare le apparenze. Allora, parliamo di economia. Ci sono state molte polemiche sulle manovre della Federal Reserve, sulle manovre espansive da parte del governo americano. Noi in Europa siamo rimasti soffocati da Maastricht, dal limite del 3% nel rapporto disavanzo PIL e soprattutto vincolati da una Germania che era ossessionata da possibile ritorno di inflazione quando siamo in piena deflazione. Abbiamo sbagliato in Europa e ha visto bene l'America? Qual è la tua impressione, visto che sei in movimento di passaggio, che adesso negli Stati Uniti, quindi hai una presa diretta anche con il paese? L'Europa ha sicuramente sbagliato, nel senso che è chiaro che i limiti posti dalla Germania, dalla Commissione, da tutta la burocrazia europea sono soffocanti. Vanno forse nella direzione giusta per buona parte, ma poi oltre un certo punto uccidono non soltanto i germi, ma uccidono anche l'ammalato, quindi bisogna su questo intervenire. Quindi intervenire con dei progetti di riforma, di Maastricht. Dei progetti di riforma che superino le dimensioni nazionali in molti campi. Qualcosa è stato fatto con l'unione bancaria, ma qui dobbiamo fare una politica energetica comune, dobbiamo fare probabilmente una politica di istruzione comune. Dobbiamo fare politiche in vari settori industriali. E una politica fiscale anche, immagino. E poi dovremmo arrivare a quello. Cioè, quando arriviamo a quello, l'Unione non si rompe più. Cioè, una parte delle imposte si pagano direttamente a Bruxelles. E così come succede in America, dove una parte si pagano al governo federale e le altre agli Stati Uniti. Dovendo pensare anche a una riforma politica, da qui, devo dirti, c'è sempre questa sensazione che quando si chiama l'Europa non si sa mai che numero chiamare, anche perché ci sono due presidenti, non ce n'è uno. In un mondo ideale tu vedresti anche un'Unione Europea che esprime un leader che rappresenta tutta l'Europa? Assolutamente sì, che vuol dire che ci devono essere delle forze politiche che sono anch'esse diffuse in tutti i paesi, non soltanto perché si richiamano a qualche principio ideologico del passato, ma perché c'è un programma con dei provvedimenti che il Parlamento europeo dovrà adottare, che è condiviso a livello europeo. Questa è la vera Europa che deve venire fuori. Ecco, e dovendo fare questo confronto con l'America, come vedi l'America? Un paese che sta andando avanti, un paese che ha tra mille contraddizioni una tenuta, un timone solidamente puntato verso il futuro? Qual è la tua impressione? A me sembra che l'America abbia due vortici che vanno in direzioni diverse. Uno è l'entusiasmante vortice del futuro, vortice dell'innovazione, dove siamo probabilmente sulla soglia di cambiamenti sconvolgenti. Quando dico sconvolgenti vuol dire che molte delle cose che noi facciamo normalmente, che già cominciamo a fare in maniera diversa, saranno cambiate totalmente. Penso soltanto all'assistenza sanitaria, dove noi pensiamo subito agli ospedali. Bene, con l'elettronica che abbiamo oggi, il malato può essere sempre più monitorato a casa. Uh-huh. Questo cambia moltissimo il modo di vivere. Parliamo delle scuole, dove soprattutto nelle istruzioni avanzata, dove non c'è bisogno di socializzazione, non ci sarà bisogno di classi, non ci sarà bisogno di esami che si fanno nei periodi più caldi dell'anno, ma ciascuno potrà fare l'istruzione e l'esame coi tempi suoi, tutto questo basato su tecnologie che già esistono, vanno semplicemente e quindi applicate. Su questo l'America è avanti, su questo l'America è assolutamente avanti. Dove è indietro? Dove è che vedi lì? Dove vedo l'altro vortice, l'altro vortice è la sperequazione, che uccidendo o comunque indebolendo molto la classe media riduce la possibilità di crescere sull'aumento dei consumi, non solo, ma tende a rendere meno cittadini degli altri una quota dei più poveri. Ecco, questo sarà uno dei temi centrali nella campagna elettorale per le presidenziali del 2016 e la Clinton con Larry Summers e con tutto un gruppo di intellettuali, di professori e economisti ha identificato uno slogan, che è lo slogan per superare questo problema, che in effetti è un problema, del capitalismo inclusivo, cioè di un capitalismo che riesce a riportare la classe media a condizioni soddisfacenti. Ecco, il messaggio della Clinton, di Larry Summers, di altri economisti, lei l'ha preso da Larry Summers, è il messaggio per il capitalismo inclusivo. Secondo te questo può rispondere, questa idea di un sacrificio un po' dappertutto, a quello che è il problema percepito oggi, e in che modo? Secondo me può farlo se riesce a rinvigorire la mobilità sociale. L'America è sempre stato il paese della speranza, dove uno arriva come immigrato senza sapere come mettere assieme il pranzo con la cena, e però riesce a salire, cosa che in Europa non si riesce quasi mai a fare. Bene, questa capacità di salire si è alquanto ridotta negli ultimi 20-30 anni. L'America deve recuperare questa flessibilità, solo così avrà l'energia necessaria, cioè energia ne ha tantissima, ma tende a essere divisiva. Invece, se noi riusciamo a parlare a tutti e a pensare che loro e i loro figli potranno fare grandi cose, allora anche l'America farà grandi cose. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho con me Mario De Aglio, professore di economia, economista col Centro Einaudi. Mario, una canzone in mezzo a queste mille difficoltà che abbiamo. Cosa in mezzo alle mille difficoltà il mio cuore torna giovane, quindi una canzone di quando questo paese aveva difficoltà, forse ancora superiori di quelle attuali dal punto di vista della coesione sociale, e cioè We Shall Overcome, cantato da Joan Baez, che era la voce della mia giovinezza, e questo dovrebbe essere un augurio per il futuro di tutti. We Shall Overcome, ce la faremo, di Joan Baez. We shall Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!